mangiò tre largine. Ho già il margine, sono già per poche pagine. E io mi sento distrutto come la flotta di cartaggine. Pensi che sia facile che tutto sia labile? Ho sto vuoto dentro e il mare non è navigabile. La passione fra noi ma è diventata palpabile. Siamo abile, quindi saliamo insalvabile. Sempre soliti argomenti, ti lamenti se mi senti. Troppo poco in questo tempo e troppi pochi momenti che uniscono la mia anima alla tua in una sola. Che uniscono la tua rosa, uniscono la mia parola. E vedi che non conta quanto siamo lontani, perché se siamo lontani io non ho più le tue mani. Non ho il tuo profumo sotto le mie narici, ma alla fine vissero contenti e felici. Forse non sono romantico, in amore carpe diem, quindi cogli l'attimo. Vivi alla giornata, una cosa sempre nuova. Amo te perché sei la mia stella supernova. E sì, già gliel'ho detto, il mio amore è schietto. Pezzi di lei stanno qua dentro nel mio petto. E c'è un nodo in gola, se sparisce non mi chiama. Sei la sola luminosa, perla della mia collana. E io senza te è come il cielo senza stelle. Oppure come la vita, cose brutte senza cose belle. Primavera quando pesco senza fiori. Se sto con te una roba lei da mille colori. Mi piace quando parli, mi piace quando taci. Se parliamo di baci devi baciarmi e taci. Se sono rose e fiori grandi, poi tu sarai mia, io sarò tuo, tu mia. E insieme scapperemo via. Fossi un delinquente, via da qui, insieme scappiamo lontano. Dove correremo soli con la tua nella mia mano. E so che per me tu ci sarai, e intanto io ravvivo il tuo cuore. Non chiedo alcun riscatto, dolce amore lo sai che è una cosa bella. Insieme facciamo atomi di una particella. Non mi sembra vero, brilli come una stella. Mi prendi sì, con quel tuo fare da modella. E sai che per te io darei il mio meglio. Stasera cerco un motivo per stare sveglio. Esco dal mio guscio nel quale l'ho rinchiuso. Ed ora capivo che da sto mondo ero escluso. Confuso, mi sentivo prima un po' deluso. Ma ora ci pensi tu a mandarmi fuori uso.